cominciamo questa seconda puntata, diciamo, di questa rubrica che abbiamo deciso di chiamare Africa in Movimento, proprio come diceva Salvatore, anzitutto per sottolineare le diversità dei processi, delle realtà che contiene il continente africano. Allo stesso tempo però cercheremo, attraverso le riflessioni su processi emancipatori, dinamiche di auto-organizzazione, movimenti di protesta, storie delle indipendenze, come faremo oggi nella seconda parte, di trovare delle continuità che a partire dal processo, dei processi coloniali arrivano fino ad oggi. Prima parte di questa trasmissione è dedicata oggi agli sviluppi di quello che sta accadendo, di quello che è accaduto in Tunisia e di cui vi abbiamo parlato durante la settimana scorsa. Ricordiamo appunto brevemente, Ben Ali se n'è andato, ha lasciato il paese, e quindi affronteremo un attimo questo tipo di discorso, quello che è avvenuto in questa settimana, una settimana densa di eventi. Successivamente faremo poi una riflessione invece più storica, come era in realtà l'intento iniziale della trasmissione, ovvero riflettere su alcune tematiche storiche, quindi nella loro evoluzione dal momento dell'indipendenza in poi, per cercare di comprendere meglio le realtà africane. Allora, ricordiamo anzitutto che la Tunisia da venerdì ha dichiarato una 3 giorni di lutto nazionale a seguito appunto delle repressioni che il popolo tunisino ha subito da parte dello Stato, del regime tunisino, sia durante le contestazioni al regime di Ben Ali, sia in realtà poi nei giorni successivi, soprattutto in quel caos che si è venuto, che è stato provocato da davvero azioni di paramilitari, comunque all'interno appunto dei contesti urbani come appunto la capitale Tunisi, ma anche nelle province del paese. Giornate di lutto nazionale che sono state indette da un governo provvisorio, di cui ora parleremo brevemente, che però non hanno fermato la protesta della popolazione tunisina, che infatti proprio ieri si è riunita nelle strade di Tunisi per protestare ancora e chiedere che cosa in particolare? Lo scioglimento del cosiddetto RCD. RCD, ricordiamo, il Rassemblamento Costituzionale Democratico, era appunto il partito di riferimento del regime, quindi di Ben Ali, che ancora esiste, non è stato sciolto nonostante le richieste della popolazione. Che cosa è successo? Eravamo rimasti a Mohamed Ghannouchi, che è appunto il Premier, Presidente del Consiglio ad interim, inizialmente autoproclamatosi, poi dopo con un governo ha costituito proprio a inizio settimana un governo di unità nazionale, che ha tentato di coinvolgere anche le forze dell'opposizione, o almeno alcune forze dell'opposizione. Quelle forze di opposizione che abbiamo tentato di descrivere in maniera sintetica la settimana scorsa, ma che allo stesso tempo ha tentato anche di mantenere una continuità con l'apparato del regime di Ben Ali. Se pensiamo che in questo governo di unità nazionale vi sono, o comunque vi erano all'inizio, 8 ministri del nuovo governo che erano appunto gli stessi presenti all'epoca di Ben Ali. Poi vi sono stati appunto 3 partiti dell'opposizione che sono stati coinvolti, in particolare il partito Etajdid, rinnovamento si intende, cioè la traduzione diciamo letterale di questo termine, che era l'ex partito comunista. Poi chi vuole risentire la trasmissione per capire bene che cosa e che evoluzione ha avuto questo partito lo potrà sentire sul Tito. Comunque Ahmad Ibrahim, che era appunto il capo del partito Etajdid, è stato nominato ministro dell'educazione superiore. Un partito, quello Etajdid, pieno di contraddizioni, lo abbiamo già ricordato, che ancora oggi deve quasi giustificare il suo ingresso nel governo, dicendo di appunto essere quasi costretto a collaborare con membri dell'RCD, appunto gli altri ministri del governo, per il bene del paese, che quindi dice l'Etajdid, esponenti dell'Etajdid affermano che il loro ingresso nel governo è funzionale a appunto evitare l'avanzata degli islamisti o addirittura un ritorno di Ben Ali. Vi è poi il Partito Democratico Progressista, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, di questo Najib Chebbi, che appunto è stato nominato ministro dello sviluppo regionale e che già prima della fuga di Ben Ali aveva fatto un appello al presidente dicendo appunto che sarebbe stato necessario un governo di unità nazionale, quindi non ha smentito le dichiarazioni precedenti, la linea politica di questo partito, con tutti i limiti che questa che possiamo immaginare, insomma, ha avuto negli anni passati. E infine c'è stato appunto il Forum Democratico per il Lavoro e le Libertà, il cui leader appunto Mustafa Ben Jafar è stato nominato ministro della salute, e che in realtà, come vedremo poi come diremo a breve, in realtà poi si è dimesso. Vi erano poi all'interno di questo governo, il fattore interessante era che vi erano anche esponenti della cosiddetta società civile, in particolare questo Slim Mahmoud, che era appunto più conosciuto con uno pseudonimo in quanto blogger, Slim 404, arrestato a inizio gennaio di questo appunto 2011 con l'accusa di aver cospirato con azioni, con cyberattacchi contro i siti del governo, era stato recentemente rilasciato e appunto nominato nel nuovo governo di unità nazionale, nel governo provvisorio, segretario di Stato per il Ministero della Gioventù e dello Sport. Naturalmente questa nomina ha portato a forti critiche anche da parte dell'ambiente dei blogger stessi, che hanno contestato a Slim la sua, il suo, come dire, la sua politica entrista, il suo arrivismo. Alcuni l'hanno accusato appunto proprio di arrivismo nei siti, nei vari siti appunto dove si dibatte spesso sulle sorti della Tunisia. Slim, che ha dichiarato, è stato contestato per alcune sue affermazioni passate, ovvero i blogger sono andati a rivedere le affermazioni che lui aveva fatto nel corso della sua carriera, diciamo, di blogger, affermazioni molto spesso anche paradossali, contraddittorie. Addirittura nel 2010 gli viene contestata un suo articolo che si chiama appunto "Pagare i bambini per andare a scuola", dove lui praticamente era d'accordo con un provvedimento adottato dal governo tunisino di sostenere economicamente, diciamo, invogliare gli studenti, i ragazzini ad andare a scuola attraverso appunto il pagamento, proprio diceva che non c'era nulla di male se l'effetto era quello di andare a scuola. E ha dichiarato poi successivamente di non aver nessun tipo di remora a rimanere in questo governo, nonostante le defezioni di cui parleremo, perché era necessario, secondo lui, la presenza di alcuni membri dell'RSD all'interno di un governo di unità nazionale, perché loro, come diceva proprio secondo le parole stesse di Slim Mahmoud, sapevano il fatto loro, erano del mestiere ed era quindi necessario. Quindi vediamo le contraddizioni anche interne alla cosiddetta società civile, che molto spesso viene come dire, infatti viene elogiata per il ruolo di rinnovamento all'interno appunto del processo di emancipazione che la società tunisina potrebbe potenzialmente avere in futuro, ma che in realtà è pieno di contraddizioni. Perché? Perché non vi è una linea politica veramente delineata per una prospettiva, e quindi che possa in grado di definire una prospettiva politica per il paese. Naturalmente altre forze politiche sono state come dire, escluse da questo governo provvisorio, in primis il partito Ennahda, di cui parlavamo l'altra volta, ovvero Rinascita, il partito cosiddetto islamista, anche se in realtà ne abbiamo già parlato la volta scorsa, è un partito in realtà molto pragmatico, che ormai ha tolto dal suo programma politico anche dal suo programma l'enunciazione e la formazione di uno Stato islamico, quindi un partito che propone, che vuole una dialettica istituzionale vera e propria, quindi diciamo, e che è stato in realtà da sempre non riconosciuto dal regime di Ben Ali, che rimane ancora una forza, diciamo, estranea al processo di cosiddetta riconciliazione nazionale. Quali sono le azioni principali di questo governo? Allora, anzitutto, dalle interviste di Ghannouchi e di altri esponenti del governo, priorità viene accordata al ristabilimento, così dicono, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico. Grande attenzione quindi ad evitare manifestazioni che possano impensierire l'attività del governo provvisorio. Si propongono anche alcune riforme politiche per, così dire, come dicono loro, agevolare una fase di transizione fino a nuove elezioni, e appunto poi si propongono delle elezioni controllate, secondo loro, comunque secondo le ultime dichiarazioni, da appunto osservatori anche internazionali. Sono state proposte 3 commissioni d'inchiesta, una per accertare le responsabilità durante la repressione che le manifestazioni hanno subito durante questi giorni, una che ha indagato, che tende ad indagare sulle riforme politiche più importanti da adottare, e un'altra contro la corruzione che si era appunto manifestata negli ultimi anni dell'epoca di Ben Ali. Appunto, abbiamo detto che un governo contraddittorio, un governo provvisorio contraddittorio, che ha mostrato subito le sue contraddizioni poche ore dopo la sua formazione. In particolare 3 ministri dell'UGTT, ricordiamolo, il sindacato principale tunisino, hanno deciso diciamo spontaneamente di lasciare il governo dopo in realtà le pressioni della piazza, no? Erano tre ministri che appunto avevano deciso di partecipare al governo provvisorio, e che dopo le numerose manifestazioni che la popolazione tunisina ha continuato a promuovere nelle città e appunto in tutto il paese, hanno deciso di lasciare il governo provvisorio. Questo ci fa capire quanto l'UGTT ancora oggi non sia un soggetto politico promotore, non abbia in realtà la leadership della piazza, ma quanto in realtà tenda a cavalcare il sentimento popolare, sempre però in un secondo momento, dopo aver preso delle decisioni che dalla piazza sono appunto per la piazza sono considerate comunque impopolari o ingiuste. Per la stessa ragione, dopo c'è stato una sorta di effetto domino, lo stesso Mustafa Ben Jafar, di cui parlavamo prima, ha lasciato il Ministero della Salute, e quindi proprio perché, sempre cavalcando la protesta popolare, vi erano al proprio interno membri del RSD. La cosa strana è che appunto questa cosa la sapevano già da prima, in realtà si sono decisi dopo solo perché la piazza ha mostrato, no, un proprio interesse. Una quinta dimissione si è prodotta proprio giovedì da uno invece dei membri del antichi membri dell'RSD, che ha deciso di lasciare il governo. Qual è la reazione dell'RSD da questo punto di vista? L'RSD ha tentato a più riprese di mantenersi vivo. Ghannouchi all'inizio ha deciso di lasciare ufficialmente il partito, l'RSD, mantenendo il proprio incarico, le proprie funzioni di governo, le proprie funzioni esecutive, e così poi hanno fatto gli altri esponenti del governo. Quindi l'unica reazione che hanno avuto questi personaggi è stata di ufficialmente allontanarsi dall'RSD, mentre da questo punto di vista sappiamo appunto che è una decisione prettamente propagandistica, senza alcuna conseguenza sulle sorti dell'RSD e del partito, dell'età partito, come viene definito dai tunisini in francese, ovvero lo Stato partito. E questo appunto per quanto riguarda la reazione dell'RSD. Vi sono poi tutta una serie di richieste che vengono fatte anche dalla diaspora tunisina, comunque da quei movimenti, da quei blog, da quei siti, da quei movimenti d'opinione che si sono sviluppati, come dicevamo, anche all'estero, soprattutto in Francia. Per esempio, uno dei più importanti è quella lettera aperta che è stata fatta dalla redazione di Kalima, che è appunto un insieme di tunisini e non solo, in realtà di personalità del Maghreb in generale, che tentano comunque di opporsi da anni al regime di Ben Ali, e non solo, che appunto hanno sempre proposto una via legale, legalista al cambiamento, ed è per questo, però comunque con richieste, diciamo, abbastanza nette. In primis lo scioglimento dell'RSD, lo smantellamento di quelle sacche di resistenza del regime di Ben Ali, che si concretizza soprattutto nelle forze di polizia politica e della polizia presidenziale, il licenziamento dei ministri maggiormente coinvolti con il regime di Ben Ali, soprattutto il ministro degli interni, tale Fria, e poi la creazione di un consiglio di giuristi di diritto costituzionale e civile che appunto secondo loro doveva esaminare le modalità per sciogliere il Senato e l'Assemblea nazionale, quindi per costruire e fondare una nuova assemblea costituente. Richieste quindi, come vediamo, molto di stampo legalista, che non appunto che vogliono mettere la piazza tunisina come baluardo per una richiesta di un'apertura cosiddetta democratica. Le conseguenze di questa, un'ultima riflessione sulle conseguenze di questa settimana, o comunque della rivolta che c'è stata, dell'insurrezione che c'è stata in Tunisia, anche nel resto del mondo arabo. In primis dobbiamo ricordare che proprio oggi, sabato, è stata indetta una manifestazione ad Algeri, una manifestazione prettamente politica che chiede non ha portato avanti solo richieste di carattere socio-economico, ma proprio un'apertura del paese. Si parla nella stampa occidentale di appunto un'apertura democratica. Comunque quello che loro chiedono veramente è la fine di un regime che, come sulla falsariga delle richieste che sono state portate avanti in Tunisia. La differenza con il caso tunisino è che in realtà qui il regime in Algeria ha deciso, tramite il prefetto di Algeri, ma non solo, una politica di scontro, diciamo, di contrasto netto di questa manifestazione, delle mobilitazioni che sono state progettate da qui in poi. Soprattutto la manifestazione è stata vietata, quindi ora vedremo oggi che cosa accadrà, potremo parlarne poi dopo nelle settimane successive. Ma la cosa più importante è questo scontro frontale. Altra conseguenza importante è avvenuta proprio nelle ultime ore in Giordania, dove un'altra manifestazione importante si è sviluppata nella capitale, ad Amman, manifestazione promossa dalle principali forze di opposizione, sempre istituzionale, i Fratelli Musulmani, che lì in Giordania si trovano al governo, si trovano in Parlamento e hanno dei seggi in Parlamento con dei deputati, e anche i partiti della cosiddetta sinistra laica. Quindi vi è un effetto domino che si sta producendo, con un atteggiamento da parte dei regimi stessi contraddittorio. Passiamo da un Gheddafi che sostiene ancora Ben Ali e che dice che è il legittimo sovrano, direi io, della Tunisia, ha appunto un silenzio inquietante da parte di Mubarak in Egitto, preoccupato com'è delle prossime elezioni presidenziali che si avranno nel novembre di questo stesso anno. Quindi la situazione è in divenire, è molto dinamica, vedremo che cosa. Quello che emerge da quanto dicevi è che comunque in Tunisia in particolare, però un po' ovunque, la piazza tende, in Tunisia già la ripresa, di riprendere la parola e anche di determinare gli effetti del palazzo. Assolutamente, sembra che la piazza non abbia non voglia accettare le decisioni che dall'alto vengono prese per convogliare o comunque cooptare queste spinte che invece dal quindi basso quindi ancora ha un suo protagonismo, Benissimo, questa è la prima parte della trasmissione, adesso un po' di musica e poi passeremo alla seconda parte.